Le piacevoli notti. Libro primo di Giovan Francesco Straparola. Seconda fiaba della seconda notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Fiordiana, con lieto e festevole viso, disse: «Signora mia, e voi, onorandissimi signori, il mi parrebbe convenevole, tuttavia così parendo a tutti voi, che il nostro molino, con una sua facezia, rallegrasse questa nostra dolce compagnia. E questo io dico non già che io scampi la fatica, perciò che ne ho molte per le mani, ma perché la favola raccontata da lui, con la sua buona grazia, vi sarà di maggior piacere e contentamento. Egli, sì come voi sapete, è ingegnoso e faceto, ed ha tutte quelle buone parti che ad una gentilissima persona si convengono. E da noi, semplici donne, starebbe meglio l'aco in mano che raccontar le favole». A tutti piacque il parlare della prudente Fiordiana e sommamente la laudarono. E la signora, gettati gli occhi addosso al molino, disse: «Signor Antonio, ova con una leggiadra favola ne rallegrerete tutti». E comandolli che incominciasse. Il molino, che non pensava di favoleggiare, ringraziò prima Fiordiana delle lodi che ella date gli aveva. Dopo, ubbidientissimo alla signora, in cotal guisa alla sua favola diede principio. Favola seconda. Filenio Sisterna, scolare, in Bologna vien da tre belle donne beffato, ed egli, con una finta festa, di ciascheduna si vendica. «Io non avrei mai creduto, valorose donne, neppure immaginato che la signora mi avesse dato carico di dover favoleggiare. E massimamente, toccando la volta alla signora Fiordiana, avvenutele per sorte. Ma poscia che a sua altezza così piace, ed è di contentamento di tutti, io mi sforzerò di raccontare cosa che vi sia di soddisfacimento. E se per avventura il mio ragionare, che Dio non voglia, vi fosse noioso, o che passasse di onestà il termine, mi avrete per iscuso, e incolparete la signora Fiordiana, la quale di tal cosa ne è stata cagione. In Bologna, nobilissima città di Lombardia, madre dei studi e accomodata di tutte le cose che si convengono, ritrovavasi uno scolare, gentiluomo cretense, il cui nome era Filenio Sisterna, giovine e leggiadro e amorevole. Avvenne che in Bologna si fece una bella e magnifica festa, alla quale furono invitate molte donne della città, e delle più belle, e vi concorsero molti gentiluomini bolognesi e scolari, tra quali vi era Filenio. Costui, sì come usanza dei giovani, vagheggiando ora l'una ed ora l'altra donna, e tutte molto piacendoli, dispose al tutto volere carolare con una di esse loro, ed accostatosi ad una che Emerenziana si chiamava, moglie di messer Lamberto Bentivoglio, la chiese in ballo. Ed ella, che era gentile e non men ardita che bella, non lo rifiutò. Filenio dunque, con lento passo menando il ballo e alle volte stringendole la mano, con bassa voce così le disse: «Valorosa donna, tanta è la bellezza vostra che senza alcun fallo quella trapassa ogni altra che io vedessi giamai, e non vi è donna veruna a cui cotanto amore io porti quanto alla vostra altezza, la quale, se mi corrisponderà nell'amore, terrommi il più contento e il più felice uomo che si trovi al mondo. Ma altrimenti facendo, tosto vedrammi di vita privo, ed ella ne sarà stata della mia morte cagione. Amandovi adunque io, signora mia, com'io fo, ed è il debito mio, voi mi prenderete per vostro servo, disponendo di me e delle mie cose, quantunque picciole siano, come delle vostre proprie. E grazia maggiore dal cielo ricevere non potrei che divenire soggetto a tanta donna, la quale come uccello mi ha preso nell'amorosa pania. Emerenziana, che attentamente ascoltate aveva le dolci e graziose parole, come persona prudente, finse di non avere orecchie e nulla rispose. Finito il ballo e andatasi Emerenziana a sedere, il giovane Filenio prese un'altra matrona per mano e con esso lei cominciò a ballare. Né appena egli aveva principiata la danza che con lei si mise in tal maniera a parlare: certo non fa mestieri, gentilissima Madonna, che io con parole vi dimostri quanto e quale sia il fervido amore che io vi porto e porterò, finché questo spirito vitale reggerà queste deboli membra e infelici ossa. E felice, anzi beato mi terrei, allora quando io vi avessi per mia patrona, anzi singolar signora. Amandovi adunque io, sì, come io vi amo, ed essendo io vostro, sì, come voi agevolmente potete intendere, non arrete a sdegno di ricevermi per vostro umilissimo servitore. Perciò che ogni mio bene e ogni mia vita da voi e non altronde dipende. La giovane donna, che Pantemia si chiamava, quantunque intendesse il tutto, non però li rispose, ma la danza onestamente seguì e, finito il ballo, sorridendo alquanto, si puose con le altre a sedere. Non stette molto che lo innamorato Filenio prese la terza per mano, la più gentile, la più graziata e la più bella donna che in Bologna allora si trovasse, e con esso lei cominciò a menare una danza, facendosi far calle a coloro che s'appressavano a rimirarla, e innanzi che si terminasse il ballo egli le disse tai parole: onestissima Madonna, forse io parerò non poco presuntuoso scoprendovi ora il celato amore che io vi portai e ora porto, ma non incolpatemi, ma la vostra bellezza, la quale a ciascaduna altra donna vi fa superiore e me come vostro mancipio tene. Taccio ora i vostri laudevoli costumi, taccio le egregie e ammirabili vostre virtù, le quali sono tante e tali che hanno forza di far discendere giù dall'alto cielo i supremi dei. Se adunque la vostra bellezza, accolta per natura e non per arte, aggradisce agli immortali dei, non è maraviglia se quella mi stringe ad amarvi e tenervi chiusa nelle viscere del mio cuore. Pregovi adunque, gentil signora mia, unico refrigerio della mia vita, che abbiate caro colui che per voi mille volte al giorno more, il che facendo io riputerò aver la vita per voi, alla cui grazia mi raccomando. La bella donna, che Sinforosia si appellava, avendo ottimamente intese le care dolci parole che dal fuocoso cuore di Filenio uscivano, non puote alcuno sospiretto nascondere, ma pur considerando l'onor suo e che era maritata, niuna risposta il dì diede, ma finito il ballo se ne andò al suo luogo a sedere. Essendo tutta tre una presso all'altra, quasi in cerchio a sedere, ed intertenendosi in piacevoli ragionamenti, Emerenziana, moglie di messer Lamberto, non già a fin di male, ma burlando, disse alle due compagne: «Donne mie care, non vi ho io da raccontare una piacevolezza che mi è avvenuta oggi?» «E che?» dissero le compagne. «Io», disse Emerenziana, «mi ho trovato, caro Lando, uno innamorato, il più bello, il più leggiadro e il più gentile che si possa trovare, il quale dice esser sì acceso di me per la mia bellezza che né giorno né notte non trova riposo». E puntualmente le raccontò tutto ciò che egli le aveva detto. Il che intendendo, Pantemia e Simforosia dissero quello medesimo essere avvenuto a loro, e dalla festa non si partirono, che agevolmente conobbero uno e stesso esser stato colui che con tutta tre aveva fatto l'amore. Il perché chiaramente compresero che quelle parole dello innamorato non da fede amorosa, ma da folle e fittizio amore procedevano, e a sue parole prestarono quella credenza che prestare si suole a sogni degli infermi o a fola dei romanzi. Ed indi non si partirono, che tutte e tre concordi si diedero la fede di operare sì che ciascheduna di loro da per sé li farebbe una beffa, e in tal sorte che l'innamorato si ricorderebbe sempre che anche le donne sanno beffare. Continuando adunque Filenio in far l'amore quando con una, quando con l'altra, e vedendo che ciascheduna di loro faceva sembiante di volerli bene, si mise in cuore, se possibile era, di ottenere da ciascheduna di loro l'ultimo frutto d'amore. Ma non gli venne fatto sì come egli bramava, ed era il desiderio suo, perciò che fu perturbato ogni suo disegno. Emerenziana, che non poteva sofferire il fittizio amore del sciocco scolare, chiamò una sua fanticella assai piacevoletta e bella, e le impose che ella dovesse con bel modo parlare con Filenio e isponergli l'amore che sua madonna li porta, e quando li fusse a piacere, ella una notte vorrebbe esser con esso lui in la propria casa. Il che intendendo, Filenio si allegrò e disse alla fante: «Va e ritorna a casa e raccomandami a tua madonna, e dille da parte mia che questa sera la mi aspetti, già che il marito suo non alberga in casa». In questo mezzo Emerenziana fece raccogliere molti fascicoli di pungenti spine e posele sotto la littiera dove la notte giaceva, e stette ad aspettare che lo amante venisse. Venuta la notte, Filenio prese la spada e soletto se ne andò alla casa della sua nemica, e datole il segno fu tostamente aperto, e dopo che ebbero insieme ragionato alquanto e lautamente cenato, ambedue andorono in camera per riposare. Filenio appena si aveva spogliato per girsene al letto, che sopraggiunse messer Lamberto, suo marito, il che intendendo, la donna finse di smarrirsi e, non sapendo dove l'amante nascondere, gli ordinò che sotto il letto se ne andasse. Filenio, veggendo il pericolo suo e della donna, senza mettersi alcun vestimento indosso, ma solo con la camicia, corse sotto la littiera, e così fieramente si punse, che non era parte veruna del suo corpo, cominciando dal capo insino a piedi, che non gittasse sangue, e quanto più egli in quel scuro voleva difendersi dalle spine, tanto maggiormente si pungeva, e non ardiva a gridare, a ciò che messer Lamberto non lo udisse e uccidesse. Io lascio considerare a voi a che termine quella notte si trovasse il miserello, il quale poco mancò che senza la coda non restasse, sì come era rimasto senza favella. Venuto il giorno e partitosi il marito di casa, il povero scolare meglio che egli puote si rivestì, e così sanguinoso a casa se ne tornò, e stette con un picciolo spavento di morte, ma curato diligentemente dal medico si riebbe e recuperò la pristina salute. Non passarono molti giorni che Filenio seguì il suo innamoramento facendo l'amore con le altre due, cioè con Pantemia e con Simforosia. E tanto fece che ebbe agio di parlare una sera con Pantemia, alla quale raccontò i suoi lunghi affanni e continui tormenti, e pregolla di lui pietà avere dovesse. L'astuta Pantemia, fingendo averli compassione, si scusava di non avere il modo di poterlo accontentare, ma pur al fine, vinta dai suoi dolci preghi e cocenti sospiri, lo introdusse in casa. Ed essendo già spogliato per andarsene a letto con esso lei, Pantemia gli comandò che andasse nel camerino ivi vicino, ove ella teneva le sue acque nanfe e profumate, e che prima molto bene si profumasse, e poi se ne andasse a letto. Il scolare, non s'avvedendo dell'astuzia della malvagia donna, entrò nel camerino e, posto il piede sopra una tavola diffitta dal travicello che la sosteneva, senza potersi ritenere, insieme con la tavola cade giù in uno magazzino terreno, nel quale alcuni mercatanti tenevano bambaia e lane. E quantunque ti alto cadesse, niuno però male si fece nella caduta. Ritrovandosi adunque il scolare in quell'oscuro luogo, cominciò a brancolare se scala o uscio trovasse, ma nulla trovando, malediceva l'ora e il punto che Pantemia conosciuta aveva. Venuta l'aurora e tardi accortosi il miserello dello inganno della donna, vide in una parte del magazzino certe fissure nelle mura che alquanto rendevano di luce e, per essere antiche e gramose di fastidiosa muffa, egli cominciò con maravigliosa forza a cavare le pietre dove men forti parevano, e tanto cavò che egli fece un pertugio sì grande che per quello fuori se ne uscì, e trovandosi in una calle non molto lontano dalla pubblica strada, così scalzo e in camisia, prese lo camino verso il suo albergo e, senza esser d'alcun conosciuto, entrò in casa. Sinforosia, che già aveva intesa l'una e l'altra beffa fatta a Filenio, si ingegnò di fargli la terza, non minore delle due, e cominciollo con la coda dell'occhio quando ella lo vedeva guatare, dimostrandogli che ella si consumava per lui. Il scolare, già dimenticato delle passate ingiurie, cominciò a passeggiare dinanzi la casa di costei, facendo il passionato. Sinforosia, avvedendosi lui esser già del suo umore oltre misura acceso, gli mandò per una vecchiarella una lettera, per la quale gli dimostrò che egli con la sua bellezza e gentil costumi l'aveva sì fieramente presa e legata che ella non trovava riposo né dì né notte. E perciò, quando a lui fosse a grado, ella desiderava, più che ogni altra cosa, di poter con esso lui favellare. Filenio, presa la lettera e inteso il tenore, e non considerato l'inganno, e smemorato delle passate ingiurie, fu il più lieto e consolato uomo che mai si trovasse, e, presa la carta e la penna, le rispose che, se ella lo amava e sentiva per lui tormento, che era ben contracangiato, perciò che egli più amava lei che ella lui, e ad ogni ora che a lei ci paresse, egli era ai suoi servigi e comandi. Letta la risposta e trovata la opportunità del tempo, Sinforosia lo fece venire in casa e, dopo molti finti sospiri, gli disse: «Filenio mio, non so qual altro che tu mi avesse mai condotta a questo passo, al quale condotta mi hai, imperciò che la tua bellezza, la tua leggiadria e il tuo parlare mi ha posto tal fuoco nell'anima che come secco legno mi sento abbrusciare». Il che sentendo, il scolare teneva per certo che ella tutta si struggesse per suo amore, dimorando adunque il cattivello con Sinforosia in dolci e dilettevoli ragionamenti, e parendogli omai ora di andarsene a letto e coricarsi a lato lei, disse Sinforosia: «Anima mia dolce, innanzi che noi andiamo a letto, mi pare convenevole cosa che noi, ci riconfortiamo alquanto». E, presolo per la mano, lo condusse in uno camerino ivi vicino, dove era una tavola apparecchiata con preziosi confetti e ottimi vini. Aveva la sagace donna alloppiato il vino per far sì che egli s'addormentasse fino a certo tempo. Filenio prese il nappo e lo empì di quel vino e, non avvedendosi dell'inganno, intieramente lo bevve. Restaurati gli spiriti e bagnatosi con acqua nanfa e ben profumatosi, se ne andò a letto. Non stette guari che il liquore operò la sua virtù e il giovane sì profondamente s'addormentò che il grave tuono delle artigliane e di ogni altro gran strepito malagevolmente destato l'avrebbe. Laonde Sinforosia, vedendo che egli dirottamente dormiva e il liquore la sua operazione ottimamente dimostrava, si partì e chiamò una sua fante giovane e gagliarda, che del fatto era consapevole, e amendue per le mani e per li piedi presero il scolare e, chetamente aperto l'uscio, lo misero sopra la strada, tanto lungi da casa quanto sarebbe un buon tratto di pietra. Era circa un'ora innanzi che spuntasse l'aurora, quando il liquore perdé la sua virtù e il miserello si destò e, credendo egli essere alato di Sinforosia, si trovò scalzo e in camicia e semimorto da freddo giacere sopra la nuda terra. Il poverello, quasi perduto delle braccia e delle gambe, appena si può levare in piedi. Ma pur con gran malagevolezza levatosi e non potendo quasi affermarsi in piedi, meglio che gli puote seppe, senza essere d'alcun veduto, al suo albergo ritornò e alla sua salute provvedé. E se non fusse stata la giovinezza che lo aiutò, certamente egli sarebbe rimasto attratto dai nervi. Filenio, ritornato sano e nell'esser che era prima, chiuse dentro del petto le passate ingiurie e, senza mostrarsi crucciato di portarle odio, finse che egli era di tutta tre vie più innamorato che prima, e quando l'una e quando l'altra vagheggiava, ed elle, non avvedendosi del malanimo che egli aveva contra loro, ne prendevano trastullo, facendoli quel viso allegro e quella benigna e graziosa ciera che ad uno vero innamorato farsi suole. Il giovane, che era alquanto sdignosetto, più volte volse giocare di mano e segnarle la faccia. Ma come savio considerò la grandezza delle donne, e che vergognosa cosa gli sarebbe stata per cuotere tre femminelle, e raffrenossi. Pensava dunque e ripensava il giovane qual via in vendicarsi tener dovesse, e, non sovenendogli alcuna, molto fra se stesso si ramaricava. Avvenne, dopo molto spazio di tempo, che il giovane si immaginò di far cosa per la quale al suo desiderio agevolmente soddisfar potesse, e sì come gli venne nell'animo, così la fortuna fu di favorevole. Aveva Filenio in Bologna a Pigione uno bellissimo palagio, il quale era ornato d'un'ampia sala e di polite camere. Egli determinò di fare una superba e onorata festa e invitare molte donne, tra quali vi fussero ancora Emerenziana, Pantemia e Sinforosia. Fatto l'invito e accettato, è venuto il giorno dell'onorevole festa, tutte e tre le donne, poco savie, senza pensar più oltre, se ne andarono. Essendo l'ora di rinfrescar le donne con recenti vini e preziosi confetti, l'astuto giovane prese le tre innamorate per mano e con molta piacevolezza le menò in una camera, pregandole che si rinfrescassero alquanto. Venute dunque le pazze e sciocche tre donne in camera, il giovane chiuse l'uscio della camera e, andatosene, a loro disse: «Ora, malvagie femmine, è venuto il tempo che io mi vendicherò di voi e farrovi portare la pena dell'ingiuria fattami per lo mio grande amore». Le donne, udendo queste parole, rimasero più morte che vive e cominciarono a ramaricarsi molto d'aver altrui offeso, e appresso questo, maledicevano loro medesime che troppo si avevano fidate in colui che odiar dovevano. Il scolare, con turbato e minaccevole viso, comandò che, per quanto caro avevano la vita loro, tutta tre ignude si spogliassino. Il che intendendo, le ghiottoncelle si guatarono l'una con l'altra e dirottamente cominciarono a piangere, pregandolo non già per loro amore, ma per sua cortesia e innata umanità, l'onor suo riservato le fusse. Il giovane, che dentro di sé tutto godeva, in ciò le fu molto cortese, non volse però che nel suo conspetto vestite rimanessero. Le donne, gittatesi ai piedi del scolare, con pietose lagrime umilmente lo pregarono licenziare le dovesse, e che di sì grave scorno non fusse cagione. Ma egli, che già fatto aveva di diamante il cuore, disse questo non essere di biasmo, ma di vendetta segno. Spogliatesi adunque le donne, e rimaste come nacquero, erano così belle ignude, come vestite. Il giovane scolare, riguardandole da capo a piedi e vedendole sì belle e sì delicate che la loro bianchezza avanzava alla neve, cominciò tra sé a sentir alquanta compassione. Ma nella memoria, ritornandoli le ricevute ingiurie e il pericolo di morte, scacciò da sé ogni pietà e nel suo fiero e duro proponimento rimase. Appresso questo, l'astuto giovane tolse tutte le vestimenta loro e altre robe che indosso portate avevano, e in uno camerino ivi vicino le pose, e con parole assai spiacevoli le ordinò che tutta tre, l'una a lato dell'altra, nel letto si coricassero. Le donne, tutte sgomentate e tremanti da terrore, dissero: «Oh, insensate noi, che diranno i mariti? Che diranno i parenti nostri? Come si saprà che noi siamo qui vi state ignude trovate uccise? Meglio sarebbe che noi fussimo morte in fasce, che esser col tal vituperoso scorno manifestate!» Il scolare, vedendole coricate l'una presso all'altra, come fanno marito e moglie, prese uno linzuolo bianchissimo, ma non molto sottile, a ciò che non trasparessero le carni e fussero conosciute, e tutte e tre coperse da capo a piedi, e, uscitosi di camera e chiuso l'uscio, trovò li mariti loro che in sala danzavano, e, finito il ballo, menolli nella camera dove le tre donne in letto giacevano e disseli: «Signori miei, io vi ho qui vi condotti per darvi un poco di solacio e per mostrarvi la più bella cosa che a tempi vostri vedeste giamai». E, approssimatosi al letto, con un torchietto in mano, leggermente cominciò a levare il linzuolo da piedi e invilupparlo, e discoperse le donne sino alle ginocchia. Ed ivi li mariti videro le tondette bianche gambe con i loro snelli piedi, maravigliosa cosa a riguardare. Indi discoperse il sino al petto e mostrolli le candidissime cosce che parevano due colonne di puro marmo, col rotondo corpo al finissimo alabastro somigliante. Dopo, scoprendole più in su, li mostrò il teneretto e poco rilevato petto con le due popoline sode, delicate e tonde, che arrebbeno costretto il sommo Giove ad abbracciarle e baciarle, di che i mariti ne prendevano quel trastullo e contento che immaginar si vuole. Lascio pensare a voi a che termine si trovavano le misere e infelici donne quando udivano i mariti suoi prendere di loro trastullo. Elle stavano chete e non osavano zittire a ciò che conosciute non fossero. I mariti tentavano il scolare che le riscoprisse il volto, ma egli, più prudente nell'altrui male che nel suo, consentire non volse. Non contento di questo, il giovane scolare prese le vestimento di tutte e tre le donne e mostrolle ai mariti loro, i quali, vedendole, rimasero con una certa stupefazione che li rodeva il cuore. Dopo, con grandissima maraviglia, più intensamente riguardandole, dicevano tra sé: «Non è questo il vestimento che io tei alla mia donna? non è questa la cuffia che io le comprai? Non è questo il pendente che le discende dal collo innanzi al petto? Non sono questi gli anelletti che la porta in dito? Usciti di camera, per non turbar la festa, non si partirono, ma a cena rimasero. Il giovane scolare, che già aveva inteso esser cotta la cena e ogni cosa dal discretissimo siniscalco apparecchiata, ordinò che ognuno si ponesse a mensa. E mentre che gli invitati menavano le mascelle, lo scolare ritornò nella camera dove le tre donne in letto giacevano e, discopertole, disse: «Buongiorno, madonne! Avete voi uditi i mariti vostri? Egli no quivi fuori con grandissimo desiderio vi aspettano vedere. Che dimorate! Levatevi su, dormiglione! Non sbadigliate! Cessate ornai di stropicciarvi gli occhi! Prendete le vestimenta vostre e senza indugio ponetevele indosso, che ormai è tempo di gire in sala dove le altre donne vi aspettano». E così le berteggiava e con diletto le teneva parole. Le sconsolate donne, dubitando che il caso suo avesse qualche crudel fine, piangevano e disperavano della loro salute. E così angosciate e da dolor trafitte, in piedi si levarono, più la morte che altro aspettando, e voltatisi verso il scolare, dissero: «Filenio, ben ti sei oltremodo di noi vendicato. Altro non ci resta se no che tu prendi la tua tagliente spada e con quella tu ne dia la morte, la qual noi più che ogni altra cosa desideriamo. E se questa grazia tu non ne vuoi fare, ti preghiamo, almeno sconosciuta casa ne lasci ritornare, a ciò che l'onor nostro salvo rimanga». Parendo a Filenio aver fatto assai, prese gli suoi panni e, dateli, ordinò che subito si rivestissero, e, rivestite che furono, per un uscio segreto fuori di casa le mandò. E così, vergognate, senza essere d'alcuno conosciute, alle lor case ritornorono. Spogliatesi le loro vestimenta che indosso avevano, le posero nei loro forcieri e calidamente, senza andare a letto, si misero a lavorare. Finita la cena, i mariti ringraziorono lo scolare del buon accetto che fatto gli aveva e, molto più, del piacere che avevano avuto in vedere i delicati corpi che di bellezza avanzavano il sole e, preso da lui il combiato, si partirono e dai loro alberghi ritornorono. Ritornati adunque i mariti a casa, trovorono le loro mogli che nelle loro camere presso il fuoco sedevano e cusivano. E perché i panni, l'anella e le gioie da mariti veduti nella camera di Filenio li davano alquanta suspizione, a ciò che niuno sospetto li rimanesse, ciascuno di loro addimandò la sua donna dove era stata quella sera e dove erano le sue vestimenta, ai quali ciascheduna di loro arditamente rispose che di casa quella notte uscita non era e, presa la chiave della cassa dove erano le robbe, li mostrò le vestimenta, l'anella e ciò che i mariti fatto gli avevano. Il che, vedendo i mariti e non sapendosi che dire, rimasero cheti, raccontando minutamente alle loro donne tutto quello che gli era quella notte avvenuto. Il che intendendo, le mogli fecero sembiante di non saper nulla e, dopo che ebbero alquanto riso, si spogliorono e s'andorono a riposare. Non passorono molti giorni che Filenio più volte per strada si incontrò nelle sue care madonne e disse: «Qual di noi ebbe maggior spavento? Qual di noi fu peggio trattato?» Ma elle, tenendo gli occhi chini a terra, nulla rispondevano. Ed in tal guisa lo scolare, meglio che egli seppe e puote, senza battitura alcuna, virilmente si vendicò della ricevuta ingiuria. Fine della storia. Finita la favola dal molino raccontata, parve alla signora e alle damigelle che la vendetta delle ricevute ingiurie, fatta per lo scolare contra le tre donne, fosse stata non men spiacevole che disonesta. Ma poscia che elle considerorono l'aspra pena che lo scolaro sofferse per li pungenti spini e il pericolo grande in cui egli incorse per lo cadere dall'alto a basso, e il freddo grande che egli patì trovandosi nella strada pubblica in camisia sopra la nuda terra addormentato, giudicorono giustissima esser stata la vendetta. Ma perché Fiordiana si era scaricata di raccontar la favola, la signora le impose che almeno ella dicesse uno enimma, che non avesse disavaglianza dalla materia del scolare. La quale, desiderosa di obbedire, disse: signora mia, avvenga che lo enimma, che da me fia raccontato, non sia di grave e noiosa vendetta, sì come è stata la favola dal nostro ingegnoso messer Antonio recitata, non di meno sarà di materia che appartiene ad ogni studioso giovane. E senza altro indugio e altra risposta aspettare, così lo suo enimma propose. Un vivo con due morti un vivo fece, dal quale ebbe la vita un morto poi. Quel che era estinto dopo si rifece, vita prendendo sì che erano doi. L'uno dell'altro il premio soddisfece, tal che ciascuno attese ai fatti suoi. Il primo vivo, per lor vivi e morti, a parlar poi si puose con e morti. Fu il sottile enimma di Fiordiana diversamente interpretato, ma non fu alcuno che aggiungesse al segno. E vedendo la compagnia che Fiordiana crollava la testa, sorridendo alquanto, disse il bembo: signora Fiordiana, a me pare sciocchezza grande a perdere il tempo in questo. Dite voi ciò che vi pare, che del dir vostro tutti noi ci contenteremo. Poiché così piace, disse Fiordiana, a questa orrevole compagnia che io delle mie cose sia interpretatrice, farollo molto volentieri, non ch'io sia questa cosa bastevole, ma per soddisfare a tutti voi, a quali per molte cause mi veggio tenuta. Altro, vezzose donne, il nostro enimma non significa se non lo scolare che si leva di letto la mattina per tempo a studiare, il quale, essendo vivo, fa viva l'esca con due morti, cioè con l'acciaio e con la pietra, dal qual vivo, cioè dall'esca vivificata, poi un morto, che è il lume, riceve la vita, dopo il primo vivo, che è lo scolaro, per virtù dei due vivi e morti soprattutti si pone a ragionar con i morti, che sono i libri da uomini dotti già a gran tempo composti. Piacque sommamente a tutti la esposizione del sottilissimo enimma dalla discreta Fiordiana ingegnosamente raccontato. Fine della seconda favola della seconda notte. Registrazione di Roberto Cofini, Pesaro, 1912.